Rain for that and wait for it. Una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato. Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita. Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti. Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che diviseziona lo sfruttamento. Allora, quando sono le 21:11 minuti, con pochissimo ritardo questa sera. Mamma mia, attenzione! Sarà perché dobbiamo intervistare una persona che ci tiene all'orario. Sì, e che ci tiene soprattutto a essere intervistata, mi pare, Sì, no, infatti stasera. È assolutamente contenta che la chiamiamo questa sera. Comunque, però gli tocca, che ci dobbiamo fare, mi spiace per lei. Vabbè. Anzi, direi che dovrebbe apprezzare questa cosa, che iniziamo in orario, cioè. Infatti ci ringraziasse, va. Comunque noi cercheremo di metterla in difficoltà in ogni modo possibile. Mo non ci risponde. E vabbè, allora questo appunto è Radio Possum dopo un quarto d'ora di cazzeggio. Cazzeggio che continuerà fino alle 22 passate. Lasciamo che finisca la canzone e poi questa sera di che cosa parleremo? Parleremo di recupero di categoria particolare di animali che vengono per lo più disprezzati e che invece sono molto importanti, oltre che per loro stessi, anche per l'equilibrio ecologico di quello che resta delle nostre campagne. Hospitales fríos nos dan la bienvenida. La prisa del reloj marca el comienzo de una vida dirigida desde antes de sus primeros segundos. Es la hora epidural, cortes, tijeras, bisturís y puntos. Viniste al mundo a la hora asignada. Tu primera visión fueron las luces y las batas. Y ese olor extraño, ajeno al de tu manada, te recuerda que llegaste a la vida controlada. El corte del cordón, casi siempre prematuro, te niega lo que es tuyo, pues así será el futuro. Ya es seguro que llegaste, estás en un historial. Se separan de la madre y sin que puedas mamar, te limpian, te analizan, te crean sus códigos. Mientras la madre mira sintiendo que esto no es lógico, es paradójico que digan que es por tu bien, si lo que tú necesitas ahora es estar piel con piel. Pues si nada más nacer te separan de quien amas, empieza el degoteo de los dramas y los traumas. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Posturas que mutilan el instinto animal, protocolos que dirigen parto como enfermedad. Los hospitales, estudiosos y profesionales, priman tiempo y dinero sobre leyes naturales, imparciales relojes. relojes marcan lo que va a pasar. Proceso biológico encerrado en su jornada laboral. No quiero cargar contra una profesión, pero creo que a quien hay que hacerle caso es al corazón. Respiración, postura, lo marcan tus entrañas. Por más que obstaculicen tus deseos, unas manos extrañas te engañas y piensas que es gratuito. Los vínculos en esta sociedad están proscritos. Has visto a tu hijo a través de un cristal. La distancia entre esto y lo animal es abismal. El capital, su prisa, te roba, te requisa. La vida te pisa, mientras mi poesía avisa de que si lo natural se convierte en medicalizado. Si las personas somos carne en el mercado, nos habrán ganado y sin haber lanzado el dado. Si nos amoldamos, el resultado está claro. Estamos muertos al... Allora, eccoci, siamo in diretta con l'ospite di questa sera. Ci senti? Mi sento. Ciao, sei contenta di essere in radio con noi? Sono contentissima. Siamo grazie. Contenti anche noi. Ti ringrazio anche per la puntualità. Grazie, grazie a te. E sappiamo che eri molto contenta, insomma ci hai bombardato di messaggi oggi pomeriggio chiedendoci vi prego fatemi parlare in radio, però comunque come vedi ti abbiamo accontentata. Allora senti, no, ti volevamo chiedere, partendo innanzitutto, ci spieghi un po' che cosa consiste questa attività di, chiamiamola così, recupero rospi, si può chiamare così? Sì, diciamo che questo è un progetto che nelle province di Lecco e Como c'è ormai da 15 anni e praticamente in sostanza si tratta di recuperare questi rospi che vengono schiacciati sulla strada dalle macchine. E niente. Perché in questo diciamo periodo c'è una... No, scusa Didi. Ci sono tre fasi, la prima è quella di posizionare le barriere di contenimento e queste barriere vengono messe sulle rive, insomma ai margini della strada oppure alla fine dei boschi oppure nei posti dove questi rospi stanno a svernare e praticamente questa è la prima fase. Poi si passa al recupero vero e proprio, quindi si sta in strada di notte, quindi quando i rospi escono, e niente, con un secchio e con una torcia, perché appunto loro escono di notte, quindi bisogna è necessaria la torcia, e niente, si recuperano questi rospi, si mettono nel secchio e sostanzialmente si fa attraversare la strada, lì si mette verso il lago, verso comunque il corso d'acqua o lo specchio d'acqua dove loro vanno a riprodursi. La terza fase è quella di rimozione di queste barriere. Basta, questo è sostanzialmente quello che si fa. Ti volevamo chiedere, no, ma come è nata quest'idea di diciamo tra virgolette far attraversare la strada ai rospi, che in realtà sembra una cosa messa così un po' ridicola, ma in realtà è una cosa anche da un punto di vista ecologico molto importante, no? Esatto, sì, cioè diciamo che è nata qui a Lecco e Como ormai 15 anni fa per iniziativa di due ragazzi di Milano che avevano avuto delle segnalazioni di alcuni abitanti del luogo e quindi si sono attivati e adesso appunto sono 15 anni che fanno questo recupero. Anche in altri laghi della zona avviene questo salvataggio già da diversi anni, ad esempio nel Bresciano, nel lago di Idro, oppure anche nel Bergamasco, nel lago di Endine. Poi comunque so che anche in altre parti d'Italia avvengono queste azioni, perché comunque il buffo è diffuso in tutta Italia, è molto diffuso, a parte la Sardegna è stato trovato anche a 2000 metri di altezza in montagna, quindi è molto diffuso. Sì, questo a Roma, qui intorno a Roma per esempio si facevano, credo che si facciano ancora in alcune zone e fondamentalmente... Sì, io sapevo che appunto i ragazzi di Terra Nomala si occupavano di questo nella zona dei Castelli Romani, se non sbaglio. Sì, si fa, credo lo facciano ancora lì, non so se lo fanno ancora, e poi anni fa si faceva anche dalle parti di Valmontone, che è in provincia di Roma. E ti volevamo chiedere, ma i rospi in realtà sono animali abbastanza, per così dire, buffi, no? Quindi che cosa fanno quando tu per esempio li prendi? Perché poi molto spesso vi trovate di fronte la femmina con il maschio sopra, no? Sì, esatto, diciamo che i maschi approfittano della mole più grande della femmina e della forse della resistenza fisica anche maggiore, e si aggrappano dal bosco sopra la femmina, quindi succede che tante volte li troviamo già accoppiati praticamente. E sì, sono animali molto goffi e poi soffrono anche magari dello sbalzo termico, perché loro, essendo animali a sangue freddo, quando arrivano sull'asfalto della strada che è caldo, rimangono un po' incoglioniti, diciamo, e quindi si bloccano, e quindi anche per questo per loro rappresenta un pericolo, perché vengono appunto schiacciati dalle macchine. E anche noi li prendiamo con dei guanti, appunto perché nella nostra temperatura calda gli può dare fastidio. Comunque sono animali bellissimi, cioè anche se vengono considerati magari brutti o esteticamente fanno un po' ribrezzo, comunque se ci si avvicina si capisce che sono animali bellissimi e ci si affeziona. E poi sono anche animali molto, diciamo così, utili in termini di equilibrio ecologico, perché sono dei grossi mangiatori di insetti, per esempio. Esatto, sì, sono insettivori e infatti la loro presenza garantisce anche la sopravvivenza di altre specie come gli uccelli. Diciamo che poi si nutrono anche di lumache, vermi, anche piccoli invertebrati come i cuccioli di topo, ad esempio. Quindi questa è la loro alimentazione. Comunque sono sicuramente importanti per l'ecosistema e insomma la loro mancanza ovviamente genera comunque conseguenze per tutti. Ma diciamo che in Lombardia è stato in qualche modo la regione ha riconosciuto la loro importanza, credo che sia l'unica regione in Italia che in qualche modo ha varato dei piani di protezione o... Sì, c'è una legge regionale che dovrebbe tutelarli, poi è sempre comunque, certo, una roba scritta e non applicata. Comunque sostanzialmente, esatto, dice che è vietata la cattura, il trasporto e il commercio di questi anfibi, e allo stesso tempo tutela l'habitat di riferimento, quindi sia per la specie animale che anche per le specie vegetali che servono al rospo. Quanti anni? Sì, dimmi. No, finisci pure, te la faccio dopo. No, vai, ho finito. No, ti chiedevo quanti animali più o meno verranno trasportati durante una notte, cioè. Ma dipende dal periodo. Adesso che sono appena iniziati, non sono ancora tanti, però ci sono nottate in cui al culmine diciamo che sono veramente tanti, soprattutto quando piove, che è il loro elemento, l'acqua, sono tantissimi, sbucano da tutte le parti. Poi dipende anche dai punti di migrazione dove si vanno a recuperare. Ci sono alcune colonie che sono numerosissime, soprattutto nelle chese inizialmente erano, si stima, un 2000, adesso sono arrivati a 20.000 con le operazioni di salvataggio. In Alecco sono veramente tanti, a Como sono un po' di meno, e in alcune frazioni tipo Nesso si stanno anche già estinguendo piano piano, quindi ce ne sono pochi. Ma quindi voi, nel senso, durante la notte, giusto, andate a fare questi trasporti? E fisicamente che fate? Cioè, nel senso, fermate anche la strada, quindi il passaggio delle macchine, e come è anche poi la risposta da parte magari di chi viene fermato durante questi momenti? Ma diciamo che sostanzialmente la gente se ne frega, sono pochi quelli che rallentano quando ci vedono, nonostante in alcuni punti ci sono anche i cartelli che segnalano la presenza sia dei rospi che degli operatori, tantissimi se ne fregano, quindi ci sono addirittura persone che li tirano sotto così a sfregio. E quindi insomma, diciamo che non si può fare affidamento sul buon senso della gente, quindi le soluzioni sarebbero o la chiusura delle strade temporanea, però questa può essere applicata soltanto su vie secondarie oppure alternative, oppure diminuire, non so, il limite di velocità o mettere dei dossi o dei semafori temporanei, anche se la cosa non è molto simpatica, però a un certo punto rimane l'unica soluzione. E poi ovviamente magari la costruzione di barriere fisse da parte dei comuni, che sostanzialmente se ne fregano, però farebbero già di più, perché le nostre barriere, pur se costruite a dovere, comunque sono sempre fatte di celofan e di legno, e quindi tanti rospi comunque ci passano oppure si rompono. Beh, poi comunque diciamo che tutto questo meccanismo, che può sembrare così artificioso, in realtà cerca di coprire quella che è un danno inestimabile fatto comunque dagli esseri umani, che è quello dell'urbanizzazione dei territori, la realizzazione di infrastrutture varie, anche inutili, sì, se vogliamo. Io, infatti siamo il loro più grande nemico, cioè le persone. È l'uomo. Senti, devo chiedere, ma magari una persona che ci ascolta e che vuole fare una cosa che è una cosa molto concreta, perché permette di salvare molti animali e al tempo stesso molto semplice, una volta magari individuata una zona in cui transitano i rospi e una zona magari pericolosa, nel senso dove c'è passaggio macchina, di che cosa si deve munire, come si deve organizzare? Allora, dovrebbe cercare di contattare ad esempio la LAC per segnalare questo punto di migrazione. Io faccio riferimento alla LAC, però ci sono anche altre associazioni. Che, sì, che è la Lega Abolizione Caccia. Esatto, sì. E niente, segnalare il punto. Se vuole comunque agire in prima persona, non deve far altro che mettersi lì al calare del sole e cercare di, magari anche coinvolgendo un po' di persone, mettersi lì. Quante persone? Dipende dai punti, cioè dove siamo noi ci sono dei punti molto estesi, quindi sarebbe auspicabile che ci fossero molti volontari, e non è mai così, perché più si è meno morti ci sono, perché ci si divide la strada. Okay, poi diciamo, non bisogna stare fissi in un punto, aspettare che i rospi attraversino, bisogna comunque sempre andare avanti e indietro, sorvegliare la strada, controllare sempre dietro le barriere e prendere i rospi che ci sono dietro le barriere. Sì, perché spieghiamo un attimo, cioè, le barriere poi in cosa consistono, cioè si tratta di fare... Allora, vai. Sono dei, praticamente dei paletti di legno piantati nel terreno, noi ci avvolgiamo il fil di ferro, gli attacchiamo il celofan e lo ricopriamo con dei sassi e della terra, e praticamente queste barriere vanno a convogliare i rospi in sottopassaggi naturali che ci sono già, sfruttando quelli che ci sono già, e quindi molto spesso partono dal bosco e arrivano fino al ciglio della strada. Ok. Diciamo, come attrezzatura, che cosa serve? Tu dicevi guanti per evitare che la temperatura della pelle umana rovini, sì, la loro epidermide, magari un secchio. Sì, poi se qualcuno fa anche schifo, sì, okay, per mano, perché poi hanno vicini, questo meccanismo di difesa che ad esempio le femmine ti fanno la pipì addosso molto spesso, quindi non è molto piacevole, insomma. E poi un contenitore, non so, un secchio di plastica magari bagnato, una bacinella bagnata, una cosa così, comunque, esatto, che sia umida, secchio, però, no? Un secchio, una torcia, una giacca catarifrangente per farsi vedere al buio e basta. Tutto. Senti, qua. Poi ecco, un'altra cosa che facciamo è importante contarli e tenere la divisione tra maschi e femmine. Questo per avere alla fine della stagione il numero, cioè, dei dati da confrontare con quelli dell'anno prima. Senti, diciamo, ora abbiamo fatto tutta questa chiacchierata sui rospi. Io scommetto che ci saranno un sacco di persone che stanno ascoltando la radio, tra cui anche tanti compagni e compagni che staranno pensando: sì, vabbè, però tutto sommato sti cazzi, sono rospi. Cioè, ci stanno tante cose a cui pensare, mi sembra però l'ultimo dei problemi, rospi. Tu che cosa gli risponderesti a una persona che fa questo ragionamento? Senza insulti, Dimmi? Senza insulti, Non ti sento. Non fai niente, non ti preoccupare. Parla più forte. Purtroppo, vabbè, comunque ha detto senza insulti. Ah, vabbè, mi riesce un po' difficile, voi lo sapete. Però, insomma, gli direi che questo è il gesto più concreto per aiutare, per interessarsi di qualcosa che comunque veramente interessa a tutti, per vari motivi, soprattutto gli animalisti, magari anche loro mancano di questa cosa, cioè magari affollano i cortei, oppure si esaltano per la liberazione dei cani, però mancano, cioè, quando si tratta di andare a raccogliere rospi storcono un po' il naso, cioè alla fine, per come la vedo io, è un atto di liberazione anche quello, cioè si liberano i rospi dal nostro inferno, che sono le macchine, le strade, la cementificazione, quindi secondo me è importantissimo, cioè è un atto concreto. Sì, siamo d'accordo, anche perché non è che appunto la liberazione animale deve essere sempre per forza qualcosa di eclatante, complicato, rischioso, a volte anche gesti molto semplici, normali tra virgolette, sono altrettanto gesti di come dicevi te, insomma, esatto, di liberazione animale, ecco. Poi anche un bel modo comunque per avvicinarsi alla natura, neanche nel momento più bello, perché adesso è la primavera, quindi si possono incontrare anche altri animali, ed è carina la cosa comunque, anche per passare, non so, una serata alternativa, io lo consiglio veramente, perché è bello il contatto con la natura. Va bene, allora non lo so se tu vuoi aggiungere qualche cosa. No, per noi no, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Ma se vi posso lasciare i riferimenti. Sì, assolutamente. Certo. Allora, l'indirizzo è buffobuffo@abolizionecaccia.it, oppure sul sito di abolizionecaccia.it ci sono maggiori informazioni a riguardo. Va bene, allora ti ringraziamo per questo contributo. Eri tanto agitata, poi mi sembra che sia andata abbastanza tranquillamente. Ci sentiamo lunedì prossimo. Esatto. Comunque, ci sentiamo lunedì prossimo. Sì, ok, va bene. Per i prossimi 6 mesi, diciamo. Vabbè, grazie del tempo che ci hai dedicato. Vuoi scegliere la prossima canzone? No, tu già sai. Ok, ciao. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? Hey, dog. Drowning dog. Coming through, check. Class consciousness, huh? It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom. This is about power, and who has power and who doesn't. This is about class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the scores where the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war. It's a class war. Class war. Class conscious. Class conscious hip hop. It is a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scum fuck. That it's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? It's a class war. See it now. It's a class war. It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. Can you hear me now? So it's a class war. Yeah. It's a class war, it goes on every day. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. What's class, class got to do with it? It's about power. About power. Who has power and who doesn't? Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. I'm a class conscious. Mala, mala, mala vista. Class conscious hip hop. The state. The government. Feeling like we used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. Mala, mala, mala, mala, mala. A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing you class war. Malatesta on production. You know. Yeah. Class war. E allora eccoci di nuovo in diretta e continuiamo a parlare di quelli che poi sono i problemi che ci portano anche delle persone a decidere di agire per far attraversare i rospi, che può sembrare una cosa buffa. Proprio a Roma nei giorni scorsi è stata accolta con Gaudio e con Giubilo, sì, con quasi Gaudio. Generale. Certo, figuriamoci. Si farà il nuovissimo stadio della Roma. Che bello. Sì, appunto, una costruzione, per chi vuole, su internet ci sono i plastici di quello che sarà uno stadio. Non fanno vedere quello che c'è ora, cioè un'area di campagna, tra l'altro già martoriata da varie vicissitudini. Sì, dove tra l'altro sorge anche l'ex ippodromo, quindi, però che è una struttura più piccola. Qui si parla di un impianto da 60.000 posti più qualcosa come 245 esercizi commerciali attorno, quindi una struttura gigantesca. Un centro commerciale, potremmo definirlo un centro commerciale. Voi dovete sapere che non so se ci ascolta qualcuno di fuori Roma, ma a Roma per fortuna incredibilmente non ci sono centri commerciali, ce ne sono neanche un paio, uno. Sembra un paio, ma poi proprio Roma è una città di botteghe artigianali, di piccoli negozietti. Piccoli proprio, sì. Quindi comunque insomma è importante che a Roma si faccia un altro centro commerciale, perché ne sentivamo la mancanza. In realtà è veramente un'opera disgustosa, raccapricciante, sia per quello a cui serve, cioè a narcotizzare la gente che se va a vedere a Roma, o comunque in generale il calcio, qualsiasi squadra di pallone essa sia, sia anche il fatto che appunto assistiamo a questo sindaco Ignazio Marino, che è un sindaco politicamente debolissimo, che non ha nessuna sponda e che quindi non si può minimamente permettere di opporsi a un progetto del genere, perché sennò gli fanno la pelle in questa città veramente, o linciano. E noi abbiamo trovato, girando un po' su internet, abbiamo trovato un articolo del Fatto Quotidiano che elenca una serie di problemi dello stadio, di questa struttura. In primo luogo il fatto che nelle vicinanze della zona che è stata decisa per l'edificabilità, il Tevere, che è il fiume di Roma, fa un'ampia ansa e siamo quindi in presenza di una zona che corre il rischio di, che è facilmente sondabile, il che vuol dire, tra l'altro, le zone facilmente sondabili di solito da un punto di vista di equilibrio ecologico sono zone anche molto ricche, perché sono zone dove c'è molta vegetazione, dove c'è molta acqua, quindi già quello dovrebbe essere un patrimonio che andrebbe difeso. Oltretutto là vicino sorge un depuratore, depuratore che ovviamente andrà interrato a quanto pare, perché causa continui cattivi odori, e quindi anziché chiuderlo o fare altro si propone di interrarlo. Il problema è che siamo in presenza di un impianto che l'interramento di questo impianto dovrebbe avvenire all'interno di una zona di 11 ettari dove ci sono vincoli di inedificabilità assoluta. Questo è quanto riporta l'associazione Italia Nostra, che si occupa insomma diciamo della difesa del patrimonio storico, artistico e naturale del paese. E gli stessi vincoli riguardano la fascia riparea, cioè delle penso riparea sia quella delle rive, sì, non mi viene la parola, di 9 ettari. Ci sono poi i vincoli paesaggistici su 159 dei 190 ettari della tenuta di Tor di Valle e via dicendo. Siamo quindi in presenza di una zona ad altissimo rischio di dissesto idrogeologico e soprattutto di una zona molto, molto importante da un punto di vista naturalistico, senza contare oltretutto che questo capolavoro di architettura ce lo spacciano come finanziato interamente dai privati, ma il Fatto Quotidiano fa rilevare come già in passato e altri lavori, altre opere pubbliche sono state presentate così e poi sono state invece pagate dalla collettività, come la tangenziale est di Milano, la pedemontana lombarda e via dicendo. C'è quindi anche un problema proprio di sostenibilità economica della struttura. In tutto questo si aggiunge anche il fatto che ovviamente bisognerebbe adeguare l'intero sistema dei trasporti. Quindi nuovo cemento, sempre nuovi per lavori. Chi è fuori Roma, ricordiamo che a Roma i trasporti funzionano benissimo. Benissimo. Abbiamo benissimo, ben due metropolitane. Che due linee metropolitane. Si rompono un giorno sì, un giorno no. Abbiamo strade poco affollate. Sì, il traffico non è assolutamente un problema. Il cittadino romano medio ama camminare, andare in bicicletta e disdegna la macchina. Molte similitudini con Stoccolma, Copenaghen, sai queste città qua. Cioè, uguale proprio. Ci chiamano la Oslo del Mediterraneo. E quindi niente, insomma, siamo veramente in presenza di una mostruosità nei cui confronti veramente si levano pochissime voci, perché Roma è purtroppo una città dove tu parli di calcio e la gente perde completamente la razionalità e la lucidità. E stiamo andando comunque verso l'intera rovina di un intero quadrante della città, che sarà ricoperto di cemento e di opere pubbliche, diciamo così, di dubbissima utilità, o meglio anche di certa di sicura inutilità, per fare i comodi, diciamo, e del costruttore e della società S Roma, che è di proprietà di un finanziere americano, di alcuni capitali americani, e soprattutto anche della banca Unicredit, che ancora detiene quote della Roma. E quindi niente, insomma, volevamo darvi un resoconto. Noi mesi fa avevamo fatto una puntata proprio non sullo stadio specifico della Roma, sulla prospettiva degli stadi. Proviamo a tenervi un minimo aggiornati, anche se chiaramente è un discorso poi molto complicato, perché ci sono tutta una serie di competenze da avere sia dal punto di vista legale che dal punto di vista edilizio, idrogeologico e via dicendo. Noi cerchiamo comunque un minimo di tenervi aggiornati su questa immensa schifezza. Sì, poi comunque l'impressione è, in generale, non tanto dal punto di vista dei padroni, tra virgolette, degli investitori, che ovviamente vedono questa opportunità di fare un centro commerciale in cui ci sono clienti sicuri, perché poi di questo si tratta, di creare, insomma, ci stanno vari centri commerciali in genere nei centri commerciali, oltre ai supermercati, ad altri luoghi dove si possono comprare cose. Ci mettono anche dei, tra virgolette, servizi culturali, pseudoculturali, gastronomici, per appunto per attirare gente, come può essere il cinema, multisale da paura, cose del genere. In questo caso hanno trovato lo stadio, che comunque la Roma è una squadra che tira molti tifosi, quindi diciamo, non lo so, anche pure 50-60 mila persone nelle partite di punta, anche di più, forse anche di più, sì, insomma. E queste sono tutte persone che poi mangiano, bevono, comprano, consumano. Come quindi, giustamente bisogna fare. Esatto. E io volevo soltanto aggiungere una cosa. No, però mi sa che ti ho interrotto, Mocio. Scusa se. Ah, no, ma va bene, tanto che. Mi sono lasciato prendere dalla foca. L'impressione che avevo appunto io è che non c'è da parte delle persone che vivono anche quella zona, o che vivono, diciamo, le periferie romane, non c'è una valutazione su quella che può essere l'opportunità e il beneficio che ci può dare un'area che è ancora naturale, che ancora non è stata cementificata, viene vista come così, come una cosa paesaggistica, che dice vabbè, la campagna si sposterà un pochino, invece non si pensa proprio al fatto che comunque, anche se viviamo in un modo così artificioso, in un mondo artificioso, tutto sommato abbiamo ancora bisogno di ossigeno per respirare, di acqua pulita, di cibo che non sia contaminato, e quindi forse così una riflessione che ci dovremmo fare un po' tutti è quella di dire sì, vabbè, ma a un certo punto, cioè fino a quanto dobbiamo costruire, fino a quale punto siamo disposti ad accettare il fatto che per venderci così il divertimento, che serve anche un po' a distrarci tutto sommato, siamo disposti a sacrificare tutto quello che c'è intorno. E poi così, questo è proprio un ragionamento, facendo finta che non sono antispecista, ragionando però in maniera del tutto antropocentrista, mi chiedo anche fino a che punto siamo disposti ad accettare questa cosa, ecco, l'inciso era questo. Sì, sì, sono d'accordo, perché comunque la natura, diciamo così, tra virgolette, oltre ad essere un valore in sé che va difeso, ha anche un valore perché ha anche un'utilità per l'essere umano comunque, cioè non è... Quindi anche da un punto di vista antropocentrico, antropocentrista, comunque è qualcosa che andrebbe difesa, non distrutta e devastata. E io volevo soltanto chiudere dicendo che adesso in Italia c'è questa mania degli stadi di proprietà delle squadre, e si fa sempre l'esempio degli stadi inglesi, no? Perché il modello di stadio di proprietà nasce in Inghilterra, in Gran Bretagna, in Scozia, in Irlanda, ma c'è una sostanziale differenza, nel senso che lì le strutture degli stadi non sono, innanzitutto non sono mostri come quelli che intendono progettare qua in Italia, non tanto per le dimensioni quanto per gli esercizi commerciali attorno, o meglio dentro la struttura. E poi in secondo luogo gli stadi inglesi sono strutture vecchie che sono nate e cresciute all'interno del quartiere, e quindi fanno parte veramente di una vita di quartiere. Per esempio prendete Londra è una città che ha 10 squadre di calcio, e ogni squadra di calcio ha una squadra di un quartiere, il Tottenham, l'Arsenal, West Ham e via dicendo. Sono squadre... Manchester. Sì, vabbè, sì, Manchester United, vabbè, che è di Manchester, diciamo. Sì, Manchester è di Manchester, è un'altra città. Vabbè, però sono periferie londinesi poi di fatto, o no? No, veramente Manchester è una città proprio lontana da Londra. Abbastanza lontana. È quello che stavo dicendo io. Scusa, ma anche Manchester City, quindi. Sì, Manchester City sono le città, saranno le squadre di Manchester, che è un'altra città rispetto a Londra. Però comunque, ecco, sono squadre che rappresentano, hanno un'identità, cioè vai a Glasgow, che è una città di Scozia, e c'hai i Celtic, che è la squadra cattolica di Glasgow, e Rangers, che è la squadra protestante, della comunità protestante, e hanno i loro stadi di proprietà, ma sono stadi che esistono da un secolo e che sono cresciuti all'interno di un quartiere. Non è che hanno sbracato un bosco per o meglio sì, magari l'hanno fatto quando hanno costruito la città, però è proprio un concetto edilizia e di urbanistica completamente diverso. In Italia invece abbiamo lo Juventus Stadium, che invece non c'entra proprio niente, però è la nota città di Juventus. No, la nota città di Torino, che lo sanno tutti appunto, non mi prendete in giro, volevo dire una cosa seria. No, comunque Torino, che è stata devastata dalle Olimpiadi invernali a suo tempo, insomma. No, dicevo che appunto la città di Torino è correggi se sbaglio, notoriamente. Vabbè, dai, non si può trasmettere così, però vabbè, scusate, dai, io prendo e me ne vado, perché cioè... No, dico la città di Torino, che notoriamente tifano Torino, invece non è per niente un fenomeno identitario, invece lo Juventus Stadium, come potrebbe sembrare. O sbaglio, ho detto una cavolata? Sì, è l'altro. No, è la fine, no, nel senso che il Torino è la squadra della borghesia, cioè in realtà il Torino è la squadra della borghesia torinese, la Juventus storicamente era la squadra degli immigrati, degli operai meridionali che andavano a lavorare nelle fabbriche Fiat e tifavano curiosamente per la squadra del padrone, cioè per la Juventus di Agnelli, insomma, però comunque sì. Va bene, dai, io non dico più niente per questa sera, mettiamo una canzone e andiamo avanti, va bene? Vuoi dire qualcosa? Sì, volevo dire una cosa, che poi anche Massimiliano Fuxas ha detto che proprio è orrendo questo, è orrendo, l'ha fatto un americano di cattivo gusto, non vi posso proprio spiegare. Sì, e ricordiamo appunto, per vedere un'opera bella italiana potete andare a ammirare la Nuvola di Fuxas, che invece che è proprio un'opera, guarda. Un capolavoro di stampo italico. Comunque anche a Venezia mi hanno detto che il ponte di Calatrava è molto bello, proprio un calcio sui coglioni è meglio del ponte di Calatrava. E le parolacce. Scusate, sui testicoli. Va bene, allora mettiamo una canzone o vogliamo continuare a dire cazzate per tutta la sera? Va bene. Vabbè, possiamo mettere una canzone, dire. Ok. Sono fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano dagli leggi scema che mi incatena, la terra terra trema quando i popoli si muovono. Tu le hai mai viste le bottiglie quando esplodono? Fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano da ogni legge scema che mi incatena. La terra trema quando i popoli si muovono. Tu le hai mai viste le bottiglie quando esplodono? Coi palestinesi, coi baschi, coi greci. Sono tra quelli che considerate estremi, lontano dai tuoi premi letterari, musicali. Questa roba puoi trovarla nei centri sociali. Il richiamo della piazza, il lavoro che mi ammazza, un sogno ricorrente, lo sbirro che scappa, la ganja legale, lavorare quel che basta, senza il capo che mi sfrutta e mi ricatta. L'affitto una rapina, la vita mi indovina, la rabbia con i tic la chiudo dentro una cartina. Tante case vuote, tante gente senza casa, per stare al freddo meglio una casa occupata. Sarebbe tutto nostro ma così non è, perché c'è chi dorme in strada e chi guida un M3. È tutto ingiusto, sbagliato, ed io sono lontano. Sono fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano da ogni legge scema che mi incatena. La terra trema quando i popoli si muovono. Tu le hai mai viste le bottiglie quando esplodono? Fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano da ogni legge scema che mi incatena. La terra trema quando i popoli si muovono. Tu le hai mai viste le bottiglie quando esplodono? La terra trema quando i popoli... Va bene, torniamo in diretta. Io nel frattempo sto ricevendo insulti per quel piccolo errore che ho fatto prima. Intanto, vabbè, che senza peccato scagli la prima pietra qua, perché può capitare a tutti di sbagliarsi. Comunque a scuola non si studia la geografia dell'Inghilterra, io non la sapevo. Vai, vai pure avanti tu se vuoi. Ho avuto un po' di difficoltà, scusa. Senti, perché dimmi tre città inglesi se le sai allora. No, allora, sto scherzando, Madrid, Budapest e Kiev, mi sembra, no? Vabbè, dai. Possiamo mettere un'altra canzone. Che devo dire? Sì, vabbè. Dai, no, dai, riprendiamoci. Okay, allora, passiamo un attimo così a dare qualche notizia. E vi leggiamo questo comunicato che abbiamo trovato su Informazione per quanto riguarda la SAD a Nantes. E il titolo è Cronache del processo per la manifestazione del 22 febbraio 2014. A partire dal primo pomeriggio di martedì 31 marzo, l'aula dei processi in direttissima del Tribunale di Nantes è piena di gente. I giornalisti sono venuti a divertirsi con la repressione ai danni dei manifestanti, che essi stessi hanno volontariamente attizzato. La giustizia, con il volenteroso aiuto della copertura mediatica, ha deciso di accanirsi contro i manifestanti perquisiti ed arrestati a Nantes all'indomani del trionfo del primo sbirro di Francia. I dossier delle indagini sono vuoti. Non è facile per il procuratore mascherare l'assenza di ogni inchiesta seria da parte dei 30 sbirri speciali inviati a Nantes dopo la manifestazione. È evidente la volontà di punire per l'esempio. Gli accusati passano in processo per direttissima senza aver potuto preparare la propria difesa. Dopo una parodia di processo, le cui tappe sono state scritte in anticipo, le pene cadono gelidamente sugli imputati così come sul pubblico. Insopportabile. Una persona conosciuta dell'associazionismo di Nantes, 53 anni, si prende 4 mesi con la condizionale, gratis. P non ha alcun precedente, a parte quello di lottare per i diritti dei senza casa. La pena è puramente arbitraria. L'imputato è sospettato di aver rilanciato agli sbirri una sola delle migliaia di granate lacrimogene sparate dalla folla, sulla folla. Punito per avere, ad una scala derisoria, rispedito la violenza a chi l'aveva lanciata. Due giovani manifestanti, J e G, sospettati pure loro di aver resistito alla violenza poliziesca e uno dei due di aver recuperato una maglietta nei locali del TAN, impresa dei trasporti pubblici della città, prendono entrambi della galera senza condizionale, 4 e 5 mesi di gabbio. L'incarcerazione per loro non è immediata. La martellata più violenta si abbatte sull'ultimo imputato, E, di 23 anni, militante già più volte preso di mira dalla polizia e accusato di aver fabbricato un fumogeno. La procuratrice chiede la pena pesante di 6 mesi, ma un giudice obbediente decide addirittura di raddoppiare questa richiesta già iniqua. Pronuncia la sentenza di un anno di prigione per E, con incarcerazione immediata. Perquisito ieri mattina, questa sera parte per la prigione di Nantes. Gli sbirri, ovviamente presenti in gran numero, ostentano sorrisi soddisfatti. La folla si mette a gridare di rabbia e insultare i giudici, la giustizia, mentre la sala viene evacuata da poliziotti nervosi. Alla compagna e al bimbo piccolo di E viene impedito di parlargli per un'ultima volta, di accarezzarlo un'ultima volta prima che venga trasferito. Un centinaio di persone sfila in corteo la sera fino in centro, gridando la propria rabbia contro la giustizia. Nessuna giustizia, nessuna pace, solidarietà con gli imputati. E allora, dopo tanto tempo che non davamo più una giovanardata, finalmente possiamo deliziarvi con un contributo del nostro caro amico e collega Giovanardi. Animalisti più pericolosi dei separatisti veneti. Gli animalisti sono molto più pericolosi dei separatisti veneti. Fanno attentati, bruciano furgoni, danneggiano negozi. Ci sono aziende e stabilimenti distrutti e danneggiati da questi estremisti. Lo dice Carlo Giovanardi, senatore del Nuovo Centrodestra, alla Zanzara su Radio 24. Una volta, racconta Giovanardi, sono andato... Tra l'altro, scusate, tutte alla Zanzara le dice queste cose, secondo me lo chiamano apposta per... Vabbè, una volta, racconta Giovanardi, sono andato a difendere quei poveracci del circo. Ho trovato 20 vegane vestite di nero con le mani verniciate di rosso che insultavano e mi davano dell'assassino perché mangio prosciutto, parmigiano e uova. In America ci sono leggi che bloccano questi fanatici dell'animalismo. Quella dei separatisti mi sembra invece una retata fatta in osteria. I canili in Italia, dice ancora Giovanardi, costano 600 milioni di euro all'anno, mentre la sanità ha problemi drammatici. I farmaci salvavita hanno costi esorbitanti, una spending review la farei. Prima degli animali vengono le donne, bambini e le famiglie. Mentre la brambilla dice che non si possono toccare nemmeno i topi per la sperimentazione sui farmaci. Vuoi fare qualche commento? Beh, che ringraziamo Federfauna, la confederazione sindacale degli allevatori, commercianti e detentori di animali, cioè tutti gli sfruttatori di animali, che dal loro sito ci hanno dedicato queste perle di saggezza del nostro amico Giovanardi, che era un po' di tempo che non sentivamo più in radio, e invece così. Va bene. Ci mancava. Sono fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano da ogni legge scema che mi incatena. Tra l'altro qualche giorno prima aveva fatto anche altre sparate, però più di una settimana non ne possiamo dare, credo. Sistema fuori dalla scena, lontano da ogni legge scema che mi incatena. La terra trema quando i popoli si muovono. Tu l'hai mai vista le bottiglie quando esplosono coi palestinesi, coi baschi. Ah sì, eccola qua, l'hai ritrovata subito. Gay, Giovanardi, diritto ad avere bambini è fuori in natura. Questa roba puoi trovarla nei centri sociali. Il richiamo della piazza, il lavoro che mi ammazza. Un sogno ricorrente, lo sbirro che... Vabbè, no, abbiamo perso la notizia. Che basta, senza il capo che mi sfrutta e mi ricatta. L'affitto una rapina, la vita mi indovina. La rabbia con i tina, chiudo dentro una cartina. Tante case vuote, tante gente senza casa. Per stare al freddo meglio una casa occupata. Sarebbe tutto nostro, ma così non è. Perché c'è chi dorme in strada e chi guida un M3. È tutto ingiusto, sbagliato. Ed io sono... Scalfarotto dice che due uomini rivendicano il diritto di avere bambini, cose fuori dalla natura. Carlo Giovanardi dalla Zanzara, infatti lo vedi, si ero sicuro, guarda, dalla Zanzara su Radio 24, in calza e domanda, vanno a spiegare ai bambini di 3 anni che da 2 pinguini maschi viene fuori l'uovo. Ma come fanno? Quando uno va a casa a trovare papà che si chiama Ugo e la mamma che si chiama Ugo, tutti e due hanno la barba e quindi non c'è una madre ma uno che si chiama Ugo, esattamente uguale come dolcezza e modo di fare della mamma. Io dico solo, ma siete matti? Sintetizza il senatore Alecidi. E comunque è bellissimo perché il suo slogan è sempre "ma nessuno pensa ai bambini". Alle invasioni barbariche prosegue, ho sentito Scalfarotto che diceva di avere le gonadi e dunque di poter mettere al mondo dei bambini. Ma che cacchio dice? Nessuno gli ha detto, ma voi due, Ugo e Ugo, come fate ad avere bambini? Appunto, andando a comprare le poveracce che devono fare la gestazione per loro. Vanno a trovare delle schiave. Abbiamo le gonadi? È come piovere. Allora, sono ancora parole di Giovanardi, mettiamo due uomini lì, come la pioggia, e vediamo se viene fuori un bambino. Comunque è veramente, io non ho capito assolutamente nulla di quello che ha detto, cioè, ma è proprio completamente sgrammaticato, non c'è un filo logico, non c'è niente. Ma cosa ha detto? Allora, è molto semplice, 2 pinguini maschi lo fanno l'uovo? Rispondimi a questa domanda. Ma non lo so, non credo. E allora, se 2 pinguini maschi non fanno l'uovo, se il papà si chiama Ugo, la mamma non si può chiamare Ugo. Perché sennò non è dolce come la mamma. Perché ha la barba. Eh no, si sa che ai bambini la barba non piace perché pizzica. E quindi almeno uno in famiglia senza barba ci deve stare. Quindi, caro papà Ugo, tagliati la barba, che così Giovanardi è contento. E vabbè, dai, basta. Salutiamo il nostro amico Giovanardi e... gli facciamo i nostri auguri perché si candida sindaco a Modena. E quindi ci sentiamo la prossima settimana. Va bene. Allora, e vediamo i nostri contatti che sono la gazzaladra @inventati.org se ci volete mandare una mail, oppure potete guardare sul nostro aggiornatissimo blog radiopossum.noblogs.org. E allora, come al solito, mandiamo un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale. Ciao! Siano essi umani e non. Ciao. Va bene. Vai. Non mi stai sul pezzo. Certo, però, se tu fossi uno dei due papà, Marco, sarebbe un problema. Ma sarei Ugo, quale dei due Ugo? Non si sa perché si devono chiamare con lo stesso nome. Preferisco essere un pinguino che fa l'uovo. Ma forse Giovanardi non ha capito che omosessuale non vuol dire persone dello stesso nome, vuol dire persone... Vabbè, dai, poi adesso casomai mandiamo una rettifica, va bene. Un saluto e un abbraccio a tutti, ciao! Ciao!